Il fumo, prima parte, dalla prima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Beraniel. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il fumo, prima parte. Capitolo 1. Appena i zolfatari venivano su dal fondo della buca, col fiato ai denti e le ossa rotte dalla fatica, la prima cosa che cercavano con gli occhi era quel verde là della collina lontana, che chiudeva a ponente l'ampia vallata. Qua, le coste aride, livide di tufi arsicci, non avevano più da tempo un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare come da tanti enormi formicai e bruciate tutte dal fumo. Sul verde di quella collina, gli occhi infiammati, offesi dalla luce dopo tante ore di tenebra laggiù, si riposavano. A chi attendeva a riempire di minerale grezzo i forni o i calcheroni, a chi vigilava alla fusione dello zolfo o s'affaccendava sotto i forni stessi a ricevere dentro ai giornelli che servivano da forme lo zolfo bruciato che vi colava lento come una densa morchia nerastra, la vista di tutto quel verde lontano alleviava anche la pena del respiro, l'agra oppressura del fumo che s'aggrappava alla gola fino a promuovere gli spasimi più crudeli e le rabbie dell'asfissia. I carusi, buttando giù il carico dalle spalle peste e scorticate, seduti sui sacchi per rifiatare un po' l'aria, tutti imbrattati dai cretosi acquitrini lungo le gallerie o lungo la lubrica scala a gradino rotto della buca, grattandosi la testa e guardando a quella collina attraverso il vitreo fiato sulfureo che tremolava al sole vaporando dai calcheroni accesi o dai forni, pensavano alla vita di campagna, vita lieta per loro, senza rischi, senza gravi stenti là all'aperto, sotto il sole, e invidiavano i contadini. Beati loro! Per tutti, infine, era come un paese di sogno quella collina lontana. Di là veniva l'olio alle loro lucerne che a malapena rompevano il crudo tenebrore della zolfara. Di là il pane, quel pane solido e nero che li teneva in piedi per tutta la giornata, alla fatica bestiale. Di là il vino, l'unico loro bene, la sera, il vino che dava loro il coraggio, la forza di durare a quella vita maledetta, seppur vita si poteva chiamare. Parevano sottoterra tanti morti affaccendati. I contadini della collina, all'incontro, perfino sputavano, puh, guardando a quelle coste della vallata. Era là il loro nemico, il fumo devastatore. E quando il vento spirava di là, recando il lezzo asfissiante dello zolfo bruciato, guardavano gli alberi come a difenderli e borbottavano imprecazioni contro quei pazzi che s'ostinavano a scavar la fossa alle loro fortune e che, non contenti d'aver devastato la vallata, quasi invidiosi di quell'unico occhio di verde, avrebbero voluto invadere coi loro picconi e i loro forni anche le belle campagne. Tutti, infatti, dicevano che anche sotto la collina ci doveva essere lo zolfo. Quelle creste in cima di calcare siliceo e più giù il briscale degli affioramenti lo davano a vedere. Gli ingegneri minerari avevano più volte confermato la voce. Ma i proprietari di quelle campagne, quantunque tentati insistentemente con ricche profferte, non solo non avevano voluto cedere mai in affitto il sottosuolo, ma neanche alla tentazione di praticar loro stessi per curiosità qualche assaggio, così sopra sopra. La campagna era lì, stesa al sole, che tutti potevano vederla, soggetta sì alle cattive annate, ma compensata poi anche dalle buone. La zolfara all'incontro, cieca, e guai a scivolarsi dentro. Lasciare il certo per l'incerto sarebbe stata impresa da pazzi. Queste considerazioni, che ciascuno di quei proprietari della collina ribadiva di continuo nella mente dell'altro, volevano essere come un impegno per tutti di resistere uniti alle tentazioni, sapendo bene che se uno di loro avesse ceduto e una zolfara fosse sorta là in mezzo, tutti ne avrebbero sofferto. E allora, cominciata la distruzione, altre bocche d'inferno si sarebbero aperte e in pochi anni tutti gli alberi, tutte le piante sarebbero morti, attossicati dal fumo, e addio campagne. Capitolo 2. Tra i più tentati era Don Mattia Scala, che possedeva un poderetto con un bel giro di mandorli ed olivi a mezza costa della collina, ove, per suo dispetto, affiorava con più ricca promessa il minerale. Parecchi ingegneri del corpo delle miniere erano venuti a osservare, a studiare quegli affioramenti e a far rilievi. Lo Scala li aveva accolti come un marito geloso può accogliere un medico che gli venga in casa a visitare qualche segreto male della moglie. Chiudere la porta in faccia a quegli ingegneri governativi che venivano per dovere d'ufficio non poteva. Si sfogava in compenso a maltrattare quegli altri che, o per conto di qualche ricco produttore di zolfo o di qualche società mineraria, venivano a proporgli la cessione o l'affitto del sottosuolo. «Corna, vi cedo!» gridava. «Neanche se m'offriste i tesori di Creso! Neanche se mi diceste, Mattia, raspa qua con un piede come fanno le galline, ci trovi tanto zolfo che diventi d'un colpo più ricco di, che dico, di Re Fallari. Non rasperei, parola d'onore!» E se poco poco quelli insistevano? «Insomma, ve ne andate o chiamo i cani?» Gli avveniva spesso di ripetere questa minaccia dei cani, perché il suo poderetto aveva il cancello sulla trazzera, cioè sulla via mulattiera che traversava la collina, cavalcandola, e che serviva da scorciatoia agli operai delle zolfare, ai capimastri, agli ingegneri direttori, che dalla prossima città si recavano alla vallata o ne tornavano. Ora, quest'ultimi, segnatamente, pareva avessero preso gusto a farlo stizzire, e almeno una volta alla settimana si fermavano innanzi al cancello, vedendo Don Mattia lì presso, per domandargli «Niente ancora?» «Te, Scampirro! Te, Regina!» Don Mattia, per chiasso, chiamava davvero i cani. Aveva avuto anche lui, un tempo, la mania delle zolfare, per cui s'era ridotto, eccolo là, scannato, miserabile. Ora non poteva vedere neanche da lontano un pezzo di zolfo che subito, con rispetto parlando, non si sentisse rompere lo stomaco. «E che, il diavolo?» gli domandavano. «E lui, peggio, perché vi danna l'anima il diavolo, ma vi fa ricchi, se vuole, mentre lo zolfo vi fa più poveri di Santo Giobbe, e l'anima ve la danna lo stesso». Parlando, pareva il telegrafo. Il telegrafo si intende come usava prima, ad asta, lungo lungo, allampanato, sempre col cappellaccio bianco in capo, buttato indietro a spera, e portava agli orecchi un paio di catenaccetti d'oro che davano a vedere quello che, del resto, egli non si curava di nascondere, come fosse cioè venuto su da una famiglia mezzo popolana e mezzo borghese. Nel volto raso, pallido di quel pallore proprio dei biliosi, gli spiccavano stranamente le sopracciglia enormi, spioventi, come un gran paio di baffi che si fosse sfogato a crescer lì, visto che giù, sul labbro, non gli era nemmeno permesso di spuntare. E sotto, all'ombra di quelle sopracciglia, gli lampeggiavano gli occhi chiari, taglienti, vivi vivi, mentre le narici del gran naso aquilino, energico, gli si dilatavano di continuo e fremevano. Tutti i possidenti della collina gli volevano bene. Ricordavano come egli, molto ricco, un giorno fosse venuto lì a pigliar possesso di quei pochi ettari di terra comperati dopo la rovina, col denaro ricavato dalla vendita della casa in città e di tutte le masserizie di essa e delle gioie della moglie morta di crepacuore. Ricordavano come si fosse prima rintanato nelle quattro stanze della casa rustica annessa al podere, senza voler vedere nessuno, insieme con una ragazza di circa 16 anni, Jana, che tutti, in principio, avevano creduto sua figlia, e che poi s'era saputo essere la sorella minore d'un tal Dima Chiarenza, cioè proprio di quell'infame che lo aveva tradito e rovinato. C'era tutta una storia sotto. Lo Scala aveva conosciuto questo Chiarenza ragazzo e lo aveva sempre aiutato, sapendolo orfano di padre e di madre, con quella sorellina molto più piccola di lui. Se l'era anzi preso con sé per farlo lavorare. Poi, avendolo sperimentato veramente esperto e amante del lavoro, aveva voluto averlo anche socio nell'affitto d'una zolfara. Tutte le spese per la lavorazione se le era accollate lui. Dima Chiarenza doveva soltanto star lì, sul posto, vigilare all'amministrazione e ai lavori. Intanto Jana, Januzza, come la chiamavano, gli cresceva in casa. Ma Don Mattia aveva anche un figlio unico, quasi della stessa età, che si chiamava Neli. Si sa, presto padre e madre s'erano accorti che i due ragazzi avevano preso a volersi bene, non come fratello e sorella, per non tenere la paglia accanto al fuoco e dare tempo al tempo, avevano pensato giudiziosamente d'allontanare dalla casa Neli, che non aveva ancora 18 anni, e lo avevano mandato alla zolfara, a tener compagnia e a prestare aiuto a Chiarenza. Fra 2 o 3 anni li avrebbero sposati, se tutto, come pareva, fosse andato bene. Poteva mai sospettare Don Mattia Scala che Dima Chiarenza, di cui si fidava come di se stesso, Dima Chiarenza, che gli aveva raccolto dalla strada, trattato come un figlio e messo a parte degli affari, Dima Chiarenza lo dovesse tradire, come Giuda tradì Cristo? Proprio così. S'era messo d'accordo l'infame con l'ingegnere direttore della zolfara, d'accordo coi capimastri, coi pesatori, coi carrettieri, per rubarlo a mansalva sulle spese d'amministrazione, sullo zolfo estratto, fin anche sul carbone che doveva servire ad alimentare le macchine per l'eduzione dalle acque sotterranee. E la zolfara, una notte, gli s'era allagata irreparabilmente, distruggendo l'impianto del piano inclinato che allo Scala costava più di 300.000 lire. Neli, che in quella notte d'inferno s'era trovato sul luogo e aveva partecipato agli inutili sforzi disperati per impedire il disastro, presentendo l'odio che il padre da quell'ora avrebbe portato al Chiarenza, e in cui forse avrebbe coinvolto Iana, la sorella innocente, la sua Iana, temendo che avrebbe chiamato anche lui, forse, responsabile della rovina, per non essersi accorto o per non aver denunziato a tempo il tradimento di quel Giuda che doveva essere tra poco suo cognato, nella stessa notte era fuggito come un pazzo in mezzo alla tempesta e scomparso senza lasciar nessuna traccia di sé. Pochi giorni dopo la madre era morta, assistita amorosamente da Iana, e lo Scala si era trovato solo, in casa, rovinato, senza più la moglie, senza più il figlio, solo con quella ragazza, la quale, come impazzita dall'onta e dal cordoglio, s'era stretta a lui, non aveva voluto lasciarlo. Aveva minacciato di buttarsi da una finestra se egli l'avesse respinta in casa del fratello. Vinto da quella fermezza e reprimendo la repulsione che la sua vista ora gli destava, lo Scala aveva accondisceso a condurla con sé, vestito di nero, come una figliuola 2 volte orfana là, nel poderetto acquistato allora. Uscendo a poco con l'andar del tempo dal suo lutto, s'era messo a scambiare qualche parola coi vicini e a dar notizie di sé e della ragazza. «Ah, non è figlia vostra?» «No, ma come se fosse!» Si vergognava da prima a dir chi era veramente. Del figlio non diceva nulla, era una spina troppo grande. E del resto, che notizie poteva darne? Non ne aveva. Se n'era tanto occupata la questura, ma senza venire a capo di nulla. Dopo alcuni anni, però, Iana, stanca d'aspettare così senza speranza il ritorno del fidanzato, aveva voluto tornarsene in città, in casa del fratello, il quale, sposato una vecchia di molti denari, famigerata usuraia, s'era messo a far l'usuraio anche lui, ed era adesso tra i più ricchi del paese. Così lo Scala era restato solo, lì, nel poderetto. 8 anni erano già trascorsi, e, almeno apparentemente, aveva ripreso l'umore di prima. Era divenuto amico di tutti i proprietari della collina, che spesso sul tramonto venivano a trovarlo dai poderi vicini. Pareva che la campagna avesse voluto compensarlo dei danni della zolfara. Era pure stata una fortuna l'aver potuto acquistare quei pochi ettari di terra, perché uno dei proprietari dei 6 poderi in cui era frazionata la collina, il Butera, riccone, s'era fitto in capo di diventare col tempo padrone di tutte quelle terre. Prestava denaro e andava mano a mano allargando i confini del suo fondo. Già s'era annesso quasi metà del podere di un certo Nino Mo e aveva ridotto un altro proprietario, il Labiso, a vivere in un pezzettino di terra largo quanto un fazzoletto da naso, anticipandogli la dote per 5 figliuole. Teneva da un pezzo gli occhi anche sulle terre del Lopez, ma questi, per bizza, dovendo disfarsi dopo una serie di malannate di una parte della sua tenuta, s'era accontentato di venderla, anche a minor prezzo, a un estraneo, allo Scala. In pochi anni, buttatosi tutto al lavoro per distrarsi dalle sue sciagure, Don Mattia aveva talmente beneficato quei pochi ettari di terra che ora gli amici, il Lope stesso, quasi stentavano a riconoscerli, e ne facevano le meraviglie. Il Lopez, veramente, si rodeva dentro dalla gelosia. Rosso di pelo, dal viso lentigginoso e tutto sciamannato, teneva di solito il cappello buttato sul naso, come per non veder più niente né nessuno. Ma sotto la falda di quel cappello qualche occhiata obliqua gli sguisciava di tanto in tanto, come nessuno si aspettava da quei grossi occhi verdastri che pareva covassero il sonno. Girato il podere, gli amici si riducevano sullo spiazzetto innanzi alla cascina. Là, lo scala li invitava a sedere sul murello che limitava giro giro sul davanti la scarpata su cui la cascina era edificata. Ai piedi di quella scarpata, dalla parte di dietro, sorgevano, come a proteggere la cascina, certe pioppe nere, alte alte, di cui Don Mattia non si sapeva dar pace perché Lopez ce l'avesse piantate. «Che stanno a farci, me lo dite? Non danno frutto e ingombrano». «E voi buttatele a terra e fatene carbone», gli rispondeva indolente Lopez. Ma il Butera consigliava: «Vedete un po' prima di buttarle giù se qualcuno ve le prende». «E chi volete che le prenda?» «Ma quelli che fanno i santi di legno». «Ah, i santi! Guarda, guarda! Ora capisco», concludeva Don Mattia, «se li fanno di questo legno, perché non fanno più i miracoli i santi?» Su quelle pioppe, al vespro, si davano convegno tutti i passeri della collina, e con loro fitto, assordante cinguettio disturbavano gli amici che si trattenevano lì a parlare, al solito, delle zolfare e dei danni delle imprese minerarie. Muoveva quasi sempre il discorso a Nocio Butera, il quale, come possidente più ricco, così era anche la più grossa pancia di tutte quelle contrade. Era avvocato, ma una volta sola in vita sua, poco dopo ottenuta la laurea, s'era provato a esercitare la professione. S'era impappinato nel bel meglio della sua prima arringa, smarrito, con le lacrime in pelle, come un bambino, lì, davanti ai giurati e alla corte, aveva levato le braccia, pugni chiusi, contro la giustizia raffigurata nella volta con tanto di bilancia in mano, gemendo esasperato. E che, santo Dio! Perché, povero giovine, aveva sudato ogni camicia a cacciarsi la ringa a memoria e credeva di poterla recitare proprio bene, tutta filata, senza impuntature. Ogni tanto ancora qualcuno gli ricordava quel fiasco famoso. E che, Don No, santo Dio! E Nocio Butera figurava di sorriderne anche lui, ora masticando, già, già, mentre si grattava con le mani paffute le fedine nere sulle guance rubiconde o s'aggiustava sul naso a gnocco o sugli orecchi il sellino o le staffe degli occhiali d'oro. Veramente avrebbe potuto riderne di cuore, perché se come avvocato aveva fatto quella pessima prova, come coltivatore di campi e amministratore di bene, via, portava bandiera. Ma l'uomo, si sa, l'uomo non si vuol mai contentare. E Nocio Butera pareva godesse soltanto nel sapere che altri, come lui, aveva fatto cilecca in qualche impresa. Veniva nel fondo dello scala unicamente per annunziare la rovina prossima o già accaduta di questi o di quello e per spiegarne le ragioni e dimostrare così che a lui non sarebbe certo accaduta. Tino Labiso, lungo lungo, rinfichito, tirava dalla tasca dei calzoni un pezzolone a dadi rossi e neri, vi strombettava dentro col naso, che pareva una buccina marina, poi ripiegava diligentemente il pezzolone, se lo ripassava, così ripiegato parecchie volte sotto il naso, e se lo rimetteva in tasca. Infine, da uomo prudente che non si lascia mai scappar giudizi avventati, diceva «Può essere». «Può essere?» scattava Nino Mo, che non poteva soffrire quell'aria flemmatica dell'Abiso. Il Lopez accennava di scuotersi dalla cupa noia e, sotto al cappellaccio, buttato sul naso, consigliava con voce sonnolenta: «Lasciate parlare Don Mattia, che se ne intende più di voi». Ma Don Mattia, ogni volta, prima di mettersi a parlare, si recava in cantina per offrire agli amici un buon boccale di vino. «Aceto, avvelenatevi!» Beveva anche lui, sedeva, s'attortigliava le gambe e domandava: «Di che si tratta?» «Si tratta», prorompeva al solito Nino Mo, «che sono tante bestie, tutti, a uno». «Chi?» «Ma quei figli di cane, i zolfatari. Scavano, scavano, e il prezzo dello zolfo giù, giù, giù, senza capire che fanno la loro e la nostra rovina, perché tutti i danari vanno a finir là in quelle buche, in quelle bocche d'inferno sempre affamate, bocche che ci mangiano vivi». «E il rimedio, scusate?» tornava a domandare lo scala. «Limitare», rispondeva allora placidamente Nocio Butera, «limitare la produzione dello zolfo. L'unica per me sarebbe questa. Madonna, che locco! Esclamava subito don Mattia Scala, sorgendo in piedi per gestirne più liberamente. Scusate, don Nocio mio. Locco? Sì, locco e ve lo provo. Dite un po', quante tra mille zolfare credete che siano coltivate direttamente, in economia, dai proprietari? 200 appena. Tutte le altre sono date in affitto. Tu, Tino Labiso, ne convieni? Può essere, ripeteva Tino Labiso, intento e grave. E Nino Mo, può essere? Don Mattia protendeva le mani per farlo tacere. Ora, don Nocio mio, quanto vi pare che duri, per l'ingordigia e la prepotenza dei proprietari panciuti come voi, l'affitto d'una zolfara? Dite, su, dite. 10 anni? Arrischiava incerto il Butera, sorridendo con aria di condiscendente superiorità. 12, concedeva lo Scala. 20, anzi, qualche volta. Bene, e che ve ne fate? Che frutto potete cavarne in così poco tempo? Per quanto lesti e fortunati si sia, in 20 anni non c'è modo neanche di rifarsi delle spese che ci vogliono per coltivare come Dio comanda una zolfara. Questo per dirvi che, data in commercio una minore domanda, se è possibile che il proprietario coltivatore rallenti la produzione per non rinvilire la merce, non sarà mai possibile per l'affittuario a breve scadenza, il quale, facendolo, sacrificherebbe i propri interessi a beneficio del successore. Dunque l'impegno, l'accanimento dell'affittuario nel produrre quanto più gli sia possibile. Mi spiego? Poi, sprovvisto com'è quasi sempre di mezzi, deve per forza smerciare subito il suo prodotto, a qualunque prezzo, per seguitare il lavoro. Perché se non lavora, o lo sapete, il proprietario gli toglie la zolfara. E per conseguenza, come dice Nino Mo, lo zolfo giù, giù, giù, come se fosse pietraccia vile. Ma del resto, voi, don Norcio, che avete studiato, e tu, Tino Labiso, sapreste dirmi che diavolo sia lo zolfo e a che cosa serva? Finanche il Lopez, a questa domanda speciosa, si voltava a guardare con gli occhi sbarrati. Nino Mo si cacciava in tasca le mani irrequiete, come se volesse cercarvi rabbiosamente la risposta, mentre Tino Labiso tirava al solito da capo il pezzolone per soffiarsi il naso e prender tempo da uomo prudente. «Oh, bella!» esclamava intanto Nocio Butera, imbarazzato anche lui. «Serve... serve per inzolfare le viti, serve! E anche per... già, per i fiammiferi di legno, mi pare», aggiungeva Tino Labiso, ripiegando con somma diligenza il fazzoletto. Mi pare», si metteva a sghignazzare don Mattia Scala. «Che vi pare? È proprio così! Questi due soli usi ne conosciamo noi!» «Domandatene a chi volete, nessuno vi saprà dire perché altro serva lo zolfo. E intanto lavoriamo, ci ammazziamo a scavarlo, poi lo trasportiamo giù alle marine, dove tanti vapori inglesi, americani, tedeschi, francesi, perfino greci, stanno pronti con le stive aperte, come tante bocche a ingoiarselo, ci tirano una bella fischiata e addio. Che ne faranno di là, nei loro paesi? Nessuno lo sa, nessuno si cura di saperlo. E la ricchezza nostra, intanto, quella che dovrebbe essere la ricchezza nostra, se ne va via così dalle vene delle nostre montagne sventrate. E noi rimaniamo qua, come tanti ciechi, come tanti allocchi con le ossa rotte dalla fatica e le tasche vuote. Unico guadagno? Le nostre campagne bruciate dal fumo. I quattro amici, a questa vivace, lampantissima dimostrazione della cecità con cui si esercitava l'industria e il commercio di quel tesoro concesso dalla natura alle loro contrade e intorno a cui pur ferveva tanta briga, tanta guerra di lucro, insidiosa e spietata, restavano muti, come oppressi da una condanna di perpetua miseria. Allora lo Scala, riprendendo il primo discorso, si metteva a rappresentar loro tutti gli altri pesi a cui doveva sottostare un povero affittuario di zolfare. Li sapeva tutti lui, per averli purtroppo sperimentati. Ed ecco, oltre l'affitto breve, l'estaglio, cioè la quota d'affitto che doveva essere pagata in natura, sul prodotto lordo, al proprietario del suolo, il quale non voleva affatto sapere se il giacimento fosse ricco o povero, se le zone sterili fossero rare o frequenti, se il sotterraneo fosse asciutto o invaso dalle acque, se il prezzo fosse alto o basso, se insomma l'industria fosse o no remunerativa. E oltre l'estaglio, le tasse governative d'ogni sorta. E poi l'obbligo di costruire non solo le gallerie inclinate per l'accesso alla zolfara e quella per la ventilazione e i pozzi per l'estrazione e l'eduzione delle acque, ma anche i calcheroni, i forni, le strade, i caseggiati e quanto mai potesse occorrere alla superficie per l'esercizio della zolfara. E tutte quelle costruzioni, alla fine del contratto, dovevano rimanere al proprietario del suolo, il quale, per giunta, esigeva che tutto gli fosse consegnato in buon ordine e in buono stato, come se le spese fossero state a suo carico. Né bastava, neppur dentro le gallerie sotterranee l'affittuario era padrone di lavorare a suo modo, ma ad archi o a colonne o a pasture, come il proprietario imponeva, talvolta anche contro le esigenze stesse del terreno. Si doveva essere pazzi o disperati, no? Per accettarsi fatte condizioni, per farsi mettere così i piedi sul collo. Chi erano, infatti, per la maggior parte i produttori di zolfo? Poveri diavoli, senza il becco d'un quattrino, costretti a procacciarsi i mezzi per coltivare la zolfara presa in affitto dai mercanti di zolfo delle marine, che li assoggettavano ad altre usure, ad altre soperchierie. Tirati i conti, che cosa restava dunque ai produttori? E come avrebbero potuto dare essi un men triste salario a quei disgraziati che faticavano laggiù, esposti continuamente alla morte? Guerra, dunque. Odio, fame, miseria per tutti. Per i produttori, per i picconieri, per quei poveri ragazzi oppressi, schiacciati da un carico superiore alle loro forze, su e giù per le gallerie e le scale della buca. Quando lo scala terminava di parlare e i vicini si alzavano per tornarsene alle loro abitazioni rurali, la luna alta e come smarrita nel cielo, quasi non fosse di quella notte, ma la luna d'un tempo lontano lontano, dopo il racconto di tante miserie, illuminando le due coste della vallata, ne faceva apparire più squallida e più lugubre la desolazione. E ciascuno, avviandosi, pensava che là, sotto quelle coste così squallidamente rischiarate, 100-200 metri sottoterra, c'era gente che s'affannava ancora a scavare, poveri picconieri sepolti laggiù, a cui non importava se su fosse giorno o notte, poiché notte era sempre per loro. Fine prima parte della novella Il fumo. Registrazione di Beraniel, Moretta, Italia.